Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Sperimentata in 5 ospedali italiani su un centinaio di pazienti, una terapia per curare l'impotenza con le onde d'urto a bassa intensità. A Obiettivo Salute il professor Vincenzo Mirone, andrologo ordinario di urologia all'Università Federico II di Napoli e responsabile della comunicazione della Società Italiana di Urologia. Questi sono dei dati molto molto importanti, perché finora la terapia è stata sempre affidata ai grandi farmaci, a Viagra, a Chavis, a Rivita, allo Spedra, e quindi passare a una terapia medica non orale bensì fisica con onde d'urto è certamente molto importante, tant'è che i primi risultati sono estremamente favorevoli, soprattutto in quei soggetti che non sono responders alla terapia orale. Le onde d'urto creano un microtrauma che a sua volta genera la formazione di microarterie che entrano, diciamo, nei corpi cavernosi, nei vasi dei corpi cavernosi, migliorandone enormemente la circolazione. Se volete saperne di più, sulle pagine di Obiettivo Salute, l'approfondimento del professor Mirone sulle terapie per curare l'impotenza. Bambini e sport. Darsi una mossa è importante anche per la salute psicofisica dei più piccoli. Ma quale attività sportiva scegliere? A Obiettivo Salute il dottor Attilio Turchetta, responsabile di medicina dello sport del Bambino Gesù di Roma. Quando abbiamo bambini molto piccoli, secondo me non è nemmeno corretto parlare di sport, quanto piuttosto di attività motoria e attività fisica. I bambini a quest'età si devono muovere liberamente, devono saper compiere i movimenti con il loro corpo nello spazio, lanciare gli oggetti, afferrare, saltare. Successivamente, quando sono in grado di fare queste cose, sarà opportuno avviarli verso attività magari anche socializzanti, sport di squadra, oppure attività che prevedono nuoto o l'atletica leggera, che in questo modo perfezionano ancora di più il rapporto con il corpo. Successivamente si potranno anche ultra specializzare in sport un pochettino più complicati, perché prevedono l'uso di attrezzi come per esempio la mazza dell'hockey, la racchetta da tennis. Fare sport oggi ci potrà far risparmiare cifre molto importanti e anche fastidi personali nel futuro. Sulle pagine di Obiettivo Salute tutte le indicazioni del nostro esperto, a partire dal certificato medico. Prima di salutarvi vi ricordo che vi aspetto in diretta video con Benedetta Spada. Oggi faremo una vera e propria sessione di yoga. Preparatevi. Secondo una recente studio dell'Università di Waterloo, bastano 25 minuti per ritrovare le energie. E allora provate anche voi insieme a me i benefici di questa antica disciplina orientale. Per oggi è tutto. La programmazione di Radio 24 prosegue, come sempre, con Melog. Io vi aspetto tra pochissimo in diretta video. Un saluto da Nicoletta.